America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La campana ha suonato a Wall Street, l'applauso per celebrare una ripresa di fiducia anche da questa parte della costa atlantica, come è successo in Europa. Vedremo fra poco la dinamica dell'aumento della borsa a Wall Street e vedremo soprattutto anche quale può essere l'impatto dal punto di vista politico di questa svolta nella relazione tra il presidente Barack Obama e il vecchio continente. The Dow Jones closing almost 4% higher. Ecco, veniamo ai dati. Il Dow Jones alla fine ha chiuso con un aumento del 3,90%, ben 404 punti. È stato un ruggito degli operatori di borsa, soprattutto dopo l'incidente di percorso di giovedì scorso, quando abbiamo visto addirittura perdite fino a 1000 punti. Si conferma comunque una situazione di volatilità. Come sappiamo, la volatilità alla fine non è molto buona. Comunque vi dicevo, 3,90% di aumento, 404 punti, 10.785 indice Dow Jones, di nuovo a un passo da quota 11.000. Interessante l'aumento del Nasdaq, più elevato, il 4,81%, con un aumento di 109 punti. Era dall'ottobre del 2008 che non si registrava sull'indice Nasdaq, ricordiamo, soprattutto per i tecnologici, un aumento superiore ai 100 punti. Buon andamento anche dell'S&P 500, più 4,40% a 1159 punti. Gli investitori hanno abbandonato terreni sicuri, titoli di Stato con rendimenti in aumento. Interessante un rally su titoli di banche europee trattate a New York. La Allied Irish Bank ha fatto il 18,81%, Banco Santander, devo dirvi che la settimana scorsa avevo sentito voci non troppo rassicuranti sul Banco Santander. Ecco, il bailout, il riscatto da parte dell'autorità ha avuto il suo effetto, il Santander è balzato del 22,99%, quasi il 23%, Barclays Bank più 18%, Royal Bank of Scotland 13,74%, eppure la National Bank of Greece più 14,98%. Per una volta dunque Wall Street sembra fidarsi. Due altre notizie rapide in congresso: Mary Shapiro della SEC, Gary Gensler della Commodity Futures Trading Commission stanno cercando un accordo sui circuit breakers, sugli interruttori, sui fusibili, chiamiamolo pure i fusibili di borsa, per evitare che incidenti tipo quello che abbiamo visto giovedì scorso, quando ci sono stati questi famosi 1000 punti di perdita, dicevo, per evitare che un incidente come quello si riproponga. Abbiamo anche un rapporto del Fondo Monetario Internazionale rilasciato questa mattina, ora europea. Le valutazioni del fondo sono che la ripresa europea è moderata, non omogenea, una performance più debole soprattutto se paragonata ad altre parti del mondo. Apprezzamenti però ovviamente per il piano di salvataggio che dovrebbe consentire all'Europa di procedere lungo un percorso di crescita. E arriviamo all'impatto su Barack Obama. We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked excess that was at the heart of this crisis. Ecco, avrete letto sui giornali, sentito che nel corso del fine settimana il presidente americano ha avuto un ruolo, ha parlato a lungo con i leader europei, ha cercato di informarsi sulle dinamiche dei loro progetti, ha cercato di dare consigli, a sua volta ne ha ricevuti, c'è stata un'azione concertata. Ecco, io spero che quello che è successo in Europa serva a far capire a questo presidente americano, che secondo me non è molto europeista, lo abbiamo visto in varie azioni, decisioni che ha preso nel corso degli ultimi mesi, ha cancellato un vertice con l'Europa, è passata sopra la testa dei paesi dell'est Europa quando ha dovuto mettersi d'accordo con Mosca e così via. Ecco, che finalmente si renda conto lui, presidente del Pacifico, come ha detto di essere, che l'Europa conta, che l'Europa conta per lui molto più di quello che pensa, perché l'intreccio economico fra il continente americano e il continente europeo è fortissimo, e dunque quello che poi va male in Europa inevitabilmente ha ripercussioni molto negative sugli Stati Uniti d'America. La borsa se l'è vista brutta giovedì scorso, l'abbiamo visto, sì, c'è stato un errore, ma tutto questo avveniva nel contesto di nervosismo e di sfiducia per quel che stava capitando in Grecia, e lo abbiamo visto ieri, la ripresa dei mercati americani c'è stata grazie a questo accordo raggiunto in Europa. Dunque io mi auguro che quello che non è successo dal punto di vista politico possa succedere dal punto di vista economico, e che cioè la chiave perché Obama capisca che il rapporto transatlantico è molto importante e dovrebbe forse essere ancora più importante di quello che è oggi per l'America, dovrebbe proprio essere questo accordo raggiunto in Europa del quale Obama è stato testimone. Thank you, Justice Stephen. Elena Kagan, nominata ieri dal presidente Barack Obama per la posizione di giudice della Corte Suprema, ha ringraziato il giudice Stevens, un novantenne che si è ritirato dalla Corte. Ecco, devo dire, un personaggio di straordinario interesse, Elena Kagan, sotto molti punti di vista. Intanto è molto giovane, ha 50 anni. E quindi giovanissima per entrare in Corte Suprema, è una donna che è stata preside della facoltà di Harvard, la prima donna ad essere preside della facoltà di legge di Harvard, è stata anche la prima donna a diventare Solicitor General, e dunque una sorta di avvocato generale dello Stato con una missione specifica, quella di difendere le posizioni del governo americano in Corte Suprema. Dunque per un anno da quando Barack Obama l'ha nominata, ecco, la Kagan ha passato molto tempo gomito a gomito con i giudici. Dunque, anche se lei stessa non è un giudice, non è mai stata un giudice, e questo è un altro primato in questa nomina, conosce molto bene la Corte e soprattutto è considerata una straordinaria teorica, una delle più brillanti menti giuridiche del paese, come ha detto lo stesso Barack Obama quando ieri mattina l'ha presentata dalla East Room della Casa Bianca come sua scelta appunto per la Corte Suprema. È una scelta tipica di Barack Obama, una scelta prudente, una scelta di centro. La Kagan ha sempre espresso giudizi alquanto conservatori, ha approvato per esempio la linea del presidente Bush quando si trattò di origliare sugli americani per questioni di sicurezza interna. Su un'altra questione molto dibattuta, la pena di morte, ha detto che gli stati, i singoli stati, hanno il diritto di poter procedere con la pena di morte se lo desiderano. E così via, così via. Dunque un personaggio che non dovrebbe incontrare troppe resistenze al Senato, dove ovviamente i repubblicani avranno qualcosa da dire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ma arriviamo alla canzone del giorno con la quale ci saluteremo. È morta a New York all'età di 92 anni Lena Horne. Beh, un personaggio davvero straordinario, è stata la prima cantante jazz afroamericana ad aver conquistato Hollywood. Non solo Lena Horne aveva una voce straordinaria, ma era bellissima, aveva una carnagione molto particolare, e lei stessa aveva detto che la sua carriera non sarebbe finita mai, e infatti è durata oltre 60 anni, ha continuato a lavorare fino a pochi anni fa, è venuta qui al Carlisle a fare un piccolo concerto, ha partecipato persino alla marcia su Washington dell'agosto del 63 di Martin Luther King, ha vinto Grammy Awards e indimenticabile interprete di Stormy Weather, musical del 1943. Ascoltiamo dunque un mito, Lena Horne in Stormy Weather. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.